Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Posso dire che il vero Pernacchia non esiste più. Quello attuale, corrente, quello si chiama Pernacchia. Prima è una cosa volgare, brutta. Il Pernacchio classico è un'arte. Quando ero bambino, negli studi Ponti De Laurentiis, fu ricostruito tutto il set dell'Oro di Napoli. Il Pernacchio può essere di due specie, di testa e di petto. Dico, nel caso nostro li dobbiamo fondere, deve essere di testa e di petto, cioè cervello e passione. Quando a un certo punto ci fu l'ultimo episodio che si concludeva con proprio l'esaltazione del Pernacchio. Tutti insieme? Sì. Tu, Alfonso Maria di Sant'Agata dei Bonari! Madonna! Il Pernacchio era un fatto filosofico che poteva nascere dal cervello e dal cuore, no, è stato, e doveva è stato essere chiarito. Rappresentativo di tutto quanto il rancore che si poteva e si doveva portare contro chi non aveva avuto il rispetto per l'altrui persona e per la dignità dell'altrui persona. Avete capito? La mano molle, deve essere così, molle, con delicatezza. E le labbra un po' umettate, con un Pernacchio come quello che vi ho fatto sentire io, si può fare una rivoluzione, veri? Grandi viaggi di Radio 24. Oggi non devo combattere con il cellulare di Pierluigi Pardo, e questa è una notizia, perché è qui vicino a me. Mi sento, ecco adesso mi sento, ecco adesso siamo andati anche in distorsione. Buonasera, facciamo sentire che siete circa 6411, No. Così pochi. Sono 6411 agenti rappresentanti. Allora, geolocalizziamoci come dici tu. Napoli, vicini allo stadio, vicino a Piazzale Tecchio. Fuori da quella enorme finestra, il sole, 20 gradi. Invidiateci pure. Sì, sì, invidiateci pure. Sì, sì. Io sono in camicia, tu non so perché c'hai la giacca. Vabbè che sei figo, però sono, cioè, no, ma, sono 27 gradi qua fuori. Sarei venuto in Bermuda io. Stadio San Paolo a pochi passi, 100 metri da qui, e tre volte che lo vedo a me vengono i brividi. Insomma, sarà perché io Maradona vuoi muori. Però insomma, siamo a Napoli, abbiamo una grande platea. Tra poco facciamo girare il microfono per avere finalmente, guardare in faccia i nostri interlocutori, non facciamo mai, valgono anche quelli al telefono 800 24 00 24. Un sacco di argomenti di cui discutere, un grande ospite in arrivo, quindi state lì, non vi muovete. Parliamo di Napoli, ma non solo, ovviamente parliamo molto di Napoli, perché siamo qui, un discorso anche di ospitalità, e quindi parleremo di Scialatielli, allora, di... la Juventus, no, parleremo di calcio. La Juventus, cioè, sì. Prima un ascoltatore è venuto, oggi non parlate di squadre, se alza la mano lui, il signore con il maglione blu, non sì. parlate meno di squadre a strisce, va bene, la Juventus, allora. Bene, partiamo. Conte ha sbagliato tutto ieri. Cioè, non ha sbagliato tutto, però insomma, diciamo che fai lui... turnover in coppa e in campionato l'hai già vinto da 6 mesi e fai giocare titolari. Sì, a parte che in campionato diciamo che se l'ha vinto, io sono convinto che l'abbia vinto, l'ha vinto domenica scorsa. Non c'è ancora stata una partita che la Juve ha affrontato con la certezza di vincere il campionato. Adesso domenica contro il Genoa ci sarà per la prima volta, ma sì, la svolta definitiva è stata Juve Fiorentina Napoli Roma. Giochi con Giovinco in coppa. No, ma sono d'accordo con te, è chiaro che la rotazione, se c'è una cosa sulla quale magari un po' si sta incartando Conte in una stagione ovviamente di altissimo profilo, è la rotazione. In Coppa Italia sappiamo bene come è successo, cosa è successo all'Olimpico con la Roma, anche lì Europa League con la finale. Sono d'accordo. Vabbè, che ci fa Bonna in campo e Bonucci seduto, che ci fa Tevez fuori. Che ci fa Tevez fuori, cioè la stella della tua squadra, ma tu devi fare turnover domenica scorsa, devi fare turnover prima, magari domenica prossima, il campionato l'hai vinto, cioè è inutile stare lì. Secondo me in questo c'è il difetto di Conte, cioè forse troppo provinciale, forse non adatto all'Europa. 800 24 00 24, mi raccomandano di mandare il traffico in orario perché è in arrivo. Vabbè. L'ospite, quindi che facciamo? Adesso mandiamo il traffico. Ah, ok. E poi traffico. Parliamo con Ma non ve lo dico. È il traffico di Valencia? È il traffico di Valencia. Bueno, il traffico. Bueno, è il traffico. Mucha mano. Tutti convocati. Tutti convocati. La prima cosa è che il mio italiano non è perfetto ancora. Devo imparare il mio italiano, il napoletano, perché adesso non mi chiamo Rafa, mi chiamo Raffè. Devo impararlo se qualcuno mi chiama nella strada. Io mi chiamo Benizio Raffaele e sono allenatore di Napoli Olé. Io mi chiamo Raffaele Benitez e vinco le coppe dal 2003. Io non faccio mai catenaccio, di avversari riduco uno straccio. Io sono davvero speciale, con calma glaciale parlate con me. A me passano quattro campioni, tre avanti cavalli, insigne pandei. Tutte le altre che soffre tensie potete buttarle in un fene per me. Alla fine mi assente per palle, mi sbottone, mi mette l'occhiale. Mi consiglio col presidente, gli spiego che pensa Benitez Raffaele. Ma Benitez Raffaele, sulla nave la vuole là. Prima c'era Verte, il Mazzari, una compitana. Trasferisci da Napoli, giusto, hai preso residenza. Ma io sono sempre mezzo trasferito nel sud, nel Mediterraneo. Io ho un debole per il Mediterraneo. Vivrei a Ponza, dipende da Napoli. Mercoledì a Bari ci portiamo dietro tutti a Bari. Ora mezza in macchina, poi torniamo, poi per Sicilia, insomma, diciamo sì. Tra l'altro, no, dico, ti trasferisci qui in zona perché racconti Napoli Porto la settimana giovedì prossimo. Come la vedi questa? La vedo non facile, perché l'1-0 non è un bel risultato fuori casa, però insomma chi ha visto la partita ieri sa che il Napoli di occasioni ne ha avute tante, ne ha avute molto concentrate inizio di ripresa, e lì c'è stato un po' questo brutto snodo, perché il Napoli doveva far gol, era abbastanza evidente, ha avuto tre palle gol pazzesche e poi è arrivato questo 1-0. Cioè, secondo me è una partita non facile ma giocabile, non vedo l'ora che cominci. Anch'io, quindi Pardo racconterà questa partita. Allora, voglio un applauso per il vostro allenatore che è collegato con noi, Rafa Benitez. Dai, fate, forza. Ma qui sono gente. Don Raffaele, buongiorno. Don Raffaele, buongiorno, grazie per l'applauso. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene, sì. Questa è la ora della comida in Spagna e l'ora del pranzo in Spagna, ma in Castelvolturno è lo mismo? Anche a quest'ora... Sì, questa ora è ora del pranzo. Stiamo mangiando una paella. Paella, ma è meglio il camon o la mozzarella? Questa no, la paella con il riso e con... No, lo so. Pesce, molto, molto buona. Un parmigiano che abbiamo qua lo stesso, e non mangiamo di più per non ingrassare troppo. Ecco, perfetto. Ma il mister è più preoccupato per il Porto giovedì prossimo o perché Pardo farà la telecronaca? No, che numeri fantastici. No, il Porto ho sentito che è vero che è una partita difficile, la prossima partita, perché il Porto è una squadra forte che abbiamo visto che ti può fare danno, ma la stessa volta abbiamo visto che noi possiamo fare danno lo stesso. Credo, io ho fiducia, e so che sarà difficile, ma ho fiducia perché credo che possiamo farlo. Mister, ieri primo tempo non molto bene sinceramente, poi però nel secondo tempo si è capito che il Napoli le palle gol le ha avute, che aveva il potenziale per far male al Porto. Era una scelta quella di aspettare i portoghesi e poi provare a colpirli quando erano un po' più stanchi, oppure insomma in qualche modo la scelta era aspettare l'inizio e colpire dopo con la ripartenza, ma il problema è che il primo tempo abbiamo perso due o tre situazioni di ripartenza, che abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, così non abbiamo arrivato in porta con pericolo. Il secondo tempo abbiamo avuto tre palle di gol seguite, dopo hanno fatto loro il gol, e questo ho detto mi dispiace, perché come si produce, ma credo che loro hanno meritato fare un gol perché lo hanno fatto bene, e noi poteva darsi che possiamo fare un altro gol lo stesso. Quanto è forte Reina? Quanto è leader e soprattutto rimarrà? Cioè, tutti i giorni lei va da Reina a dirgli non scherziamo, no, siamo Roma, no? Sì, Pepe credo che è un portiere che ha esperienza, che sempre ha avuto questa personalità. Io mi ricordo guardandolo quando appena aveva 17 anni, sembrava sempre un portiere veterano, un portiere con più esperienza, no? E ho visto... Dopo l'ho portato a Liverpool e l'ha fatto benissimo, e qui tutti stanno capitando il suo livello, ma il suo livello in campo e il suo livello dopo, fuori del campo, nel spogliatoio. Rafa, io invece sono un po' preoccupato per Hamsik. È argomento del giorno, ho letto le dichiarazioni, le ho sentite. Hamsik così io sinceramente non me lo ricordo. Davvero questione fisica, lei parla di fiducia che manca. Dov'è finito Hamsik? Sì, lui, dobbiamo ricordare che ha perso 2 mesi, si era infortunato, non è facile per nessuno arrivare e fare le cose che faceva prima allo stesso livello, soprattutto se qualche partita la squadra va in difficoltà senza spazio, per lui è più difficile. Lui ha libertà assoluta in campo per fare movimenti, per fare tutto lo che vuole fare, e per questo io ho fiducia che con la sua qualità, la sua capacità, giocherà bene alla fine sicuro. Mister, noi qui siamo ovviamente a celebrare la bellezza del sud, il potenziale di questa terra. Lei spesso manda foto, visite Pompei, Costiera Amalfitana. Qual è la cosa che l'ha colpita di più? Insomma, so che è riuscito anche a trovare dei tagli di tempo. Che cos'è che proprio non si aspettava che fosse così di Napoli? Ho visto tante cose, perché il Cristo Velato è bellissimo, no? Questo è senza dubbio colpisce. Ma mi ha colpito Pompei per lo che significa. Tanti anni fa la struttura della città, come è organizzata, come facevano la vita con acqua e l'acquedotto, tutto la strada per il carro, tutto il, non so se in spagnolo il passo de cebra, il passaggio per il peatonale, il passaggio peatonale, tutto questo che era così fatto, colpisce molto. Io sono più prosaico e torno al calcio, Rafa. Faccio una domanda a Benitez, detentore dell'Europa League, più che allenatore del Napoli. Dicevo prima che a mio parere Conte ha sbagliato la gestione di questo momento, perché io il turnover con campionato già vinto, e credo che possiamo essere tutti ragionevolmente d'accordo su questo, fare turnover in Europa League in questa manifestazione così importante per la Juventus, per il calcio italiano in questo momento in particolare, insomma, a me questa gestione non è piaciuta. Io non devo parlare di un altro allenatore della sua scelta, perché sempre penso che quando uno decide che deve giocare un giocatore o un altro è perché lui conosce la sua squadra. Noi ieri abbiamo fatto una scelta dei giocatori per essere forti nella fase difensiva e ripartire, e perché abbiamo qualche problema, no? Abbiamo visto qualche infortunio, cioè, la scelta dell'allenatore per me dipende da ciascuno, e che loro sono avanti in campionato, che hanno un vantaggio e hanno una rosa sufficiente per fare una maniera o nell'altra, questa è una domanda per Conte. Mister, ma se le dicessero oggi che può realizzare solo un desiderio, arrivare secondo in classifica o vincere l'Europa League, che cosa sceglie? No, queste domande sono domande pericolose. Io sempre punto per tutto. Adesso abbiamo Torino, vediamo cosa succede, ma 100% io penso che possiamo vincere contro il Porto e andare più avanti, e dopo alla finale della Coppa e provare se vinciamo questa finale, e sicuro provare se facciamo secondo. Non devo dire se certo. Fa la domanda, se manca 3 partite ti dico un'altra cosa, ma oggi okay. non devo dire una o un'altra. Ma sa perché glielo dico? Perché in Italia per tanti anni abbiamo avuto un po' di provincialismo sull'Europa League, no? Cioè sembrava veramente una coppetta, invece poi l'esempio del Chelsea, dell'Atletico Madrid, insomma alla fine la vincono grandi società, quindi insomma credo che un allenatore europeo contribuisca alla sprovincializzazione del calcio italiano, e quindi insomma sono sicuro che ve la giocherete alla grande giovedì, e qui poi ci sono cornetti in sala per fare tutti gli scongiuri. Scaramantico Benitez? No, non troppo, ma voglio dire, questo dell'Europa League se l'ho detto ai giocatori del Chelsea, prima con il Valencia e dopo con il Liverpool, che abbiamo giocato la semifinale. Sempre dico che è una competizione che inizia con squadre che non tanta gente conosce, ma piano piano una squadra forte, e abbiamo visto ieri il Porto, una squadra di Champions che non è al livello di quando hanno vinto la Champions, ma è una squadra ancora fortissima. Vediamo le altre squadre, sicuro che saranno squadre forti, e quando si avanza in questa competizione si vede che sono squadre che potevano giocare la Champions perfettamente. No, ma poi lei sa benissimo che in questo momento del calcio italiano abbiamo bisogno come l'aria di qualche grande risultato europeo, cioè stiamo tifando Napoli e Juventus, ma per tutto il calcio italiano, perché ed è per questo che io oggi sono discretamente arrabbiato con Conte. Anche Fiorentina, ma sono tutte e tre in certo. gioco, Napoli, Juventus e Fiorentina, stiamo certo. tifando per loro, ma per tutto il calcio italiano, perché ne abbiamo tremendamente bisogno in questo momento di un risultato che ci dia un po' di ossigeno. Posso fare l'ultima domanda? Sì, l'ultima a proposito domanda, di Italia e Spagna, è sorprendente quello che è successo in Atletico Madrid-Milan? Cioè, questa è la distanza che racconta il momento del calcio spagnolo e del calcio italiano, oppure è stato un episodio, è stata una situazione particolare? No, io credo che Atletico Madrid-Milan è una situazione particolare, no? Le due società che sono in un momento diverso. La nazionale spagnola con la nazionale italiana, sì, per me è un segnale del livello del calcio spagnolo, è un segnale per l'Italia per dire siamo attenti che dobbiamo migliorare se vogliamo arrivare al mondiale con la possibilità di vincere qualcosa. Che dopo diciamo che gli italiani sanno gestire la competizione, sicuro, e questo è sempre un vantaggio, ma meglio si fa bene d'inizio e si arriva con più fiducia al mondiale. Certo. Grazie mister, buon lavoro. Grazie, suerte. Suerte. Grazie, buona paella. Paella Camonimo Sarela. Sempre vamos ganando. Rafa Benitez e a Nicola Lombardo che ce la porta. Don Raffaele. Sono una bella speciale con calma glaciale, parlate con me. A me passano quattro campioni, tre avanti cavalli, insigne pandè. Tutte le latte che soffre tensie, potete buttarle in un fene per me. Alla fine mi assente per Paolo. Siamo al sud, anche con gli ascoltatori. Vai. Siracusa. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, complimenti tanto per la versione aggiornata di Don Raffaele. Non so a chi bella, vanno i complimenti. Non so chi l'ha fatto, adesso scopriamo. Chi l'ha fatto adesso? Cioè, il signor Piantanida è già al lavoro, tra poco sapremo. Prego. Allora, volevo chiedervi che ne pensate della richiesta della Procura federale di 15.000 euro di multa per il Palermo per la responsabilità sì. oggettiva riguardo le dichiarazioni, diciamo gli insulti che Miccoli nel suo privato ha fatto al compianto Falcone. Ora, noi palermitani abbiamo sofferto un po' per questo tradimento, diciamo, di questo calciatore che abbiamo apprezzato, però non capisco che cosa la responsabilità oggettiva possa coinvolgere la società del Palermo. È come volere multare il Milan per le cazzate che fa Balotelli, non lo so. Cosa ne pensate? Sì. Sono cose un po' di... Allora, secondo me, non so come sì. la vedi tu, Piero. Non ci avevo ancora riflettuto, lo faccio così in modo estemporaneo. La responsabilità oggettiva giuridicamente è un'aberrazione, esatto. Ma come questa principio è la partenza, certo. generale, quindi partiamo da lì. L'unico ambito di applicazione che io condivido è quello delle sanzioni alle società per quello che fanno i per il mancato controllo. Bravo, che poi è un concetto allora, che si applica anche alla stampa, no? Cioè, secondo me lì ci sta la responsabilità oggettiva, così come ci stava nella vicenda delle scommesse, perché tu sei la società, devi sapere cosa combinano quei signori, perché è compito tuo. Però questa era una conversazione privata di un privato cittadino. Esatto. In questo caso. Quindi io sono d'accordo con lei, cioè è veramente difficile. Io sono d'accordo con Gianni. Capire che responsabilità. Anzi, semmai Palermo, diciamo, da questa vicenda ha ricevuto un danno d'immagine, ma non c'è dubbio. Molto importante e molto significativo. Comunque, insomma, è bello il discorso di Gianni che ricorda, insomma, la palermitano. Che figure straordinarie siano state quelle di Falcone e Borsellino, siamo retorici, ma insomma non ci si stanca mai nel ricordarlo. Ecco, c'è Marco dal profondo sud, dalla provincia, dalla parte meridionale di Sondrio. Marco. Sì, buongiorno. Senta, io volevo farmi il portavoce di tantissimi sì. tifosi juventini, stanchi, pseudo giornalisti che sputano sentenze sulla vecchia signora, nascondendosi dietro a un'obiettività presunta. Non sarebbe meglio che ogni giornalista dicesse la squadra per cui fa il tifo? Sarebbe tutto molto più semplice, ok? Basta saperlo. Ma questo a che proposito? Cioè, ma perché così non ho capito. Ma no, ma questo lei è un discorso giustamente da tifoso, e ci sono la Juve è la squadra più importante d'Italia, però, dal punto di vista della classifica e dal punto di vista del numero dei tifosi se ne parla molto. C'è chi accusa i giornalisti, categoria astratta, di essere troppo juventini, però, e chi accusa di essere troppo anti-juventini. Io vorrei sapere a proposito di quali fatti, di quali circostanze, perché così in generale, cioè, è uno sparare nel mucchio, che come la responsabilità oggettiva lei mi insegna, dottore. Sì, prego, sempre, prego. È sempre qualcosa di fastidioso. Borsa. No, non sono contento con il primo tempo, credo che è meglio il secondo. Lo che dobbiamo fare è capire che il secondo è un po' l'immagine che vogliamo dare nella seconda partita. Credo che ancora il San Paolo può fare la differenza. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Ascolta, devi dire alla Lina, dov'è la Lina adesso? Dentro lo stadio ancora? Quando ha ritrovato Palmiro, di alla Lina di tornare alla svelta, perché è diventata di nuovo nonna, è nata la bambina di Moreno, ok? Diglielo, la stanno cercando. Sì, l'hanno chiamata Mario. Sì, è una bambina, l'hanno chiamata. Ilicic cerca Gomez alle spalle di Ogbonna, la palla è per lui, il controllo di Gomez! È tornato Mario Gomez! 1-1 a 12 dalla fine! E poi andate piano e non fate i caroselli sulla costata ancora. C'è un'altra partita, non festeggiamo, aspettiamo il festeggio. Ok, ciao. Speriamo di trovare Palmiro, speriamo. Sono contento per la squadra, per questo pareggio. Non è facile giocare qui a Torino, è un stadio molto imposante e con una squadra forte. Siamo contenti che abbiamo questo pareggio, ma dobbiamo andare davanti perché abbiamo solo giocato una partita, non di più, e dobbiamo continuare così perché Juventus è una squadra molto forte. È facile giocare qui. Guarda che Torino, è bravissimo Mario Gomez, stavo sottolineando Gomez. Il contrario, ha un italiano fantastico, considerato sì, questo, è vero che ha giocato poco, magari ma saperlo purtroppo... No, io vorrei ravvivare un po' la platea. Va bene che è l'ora della pennica, ragazzi, però allora sono indeciso tra far cantare questi sono tutti agenti.it, allora sono facciamo agenti, rappresentanti, facciamo uomini di azienda, okay, allora. Le cravatte straordinarie, delle camicie straordinarie. Allora, io lancio questa proposta, mentre innanzitutto buttiamo il microfono in mezzo al pueblo, così almeno chi vuole intervenire interagisce. C'è la Ligios, venga. Ci puoi fare questa cosa? Non so se fai marketing, però dai, Ligios, vai col microfono in giro. Allora, entusiasmo della signorina Ligios, entusiasta proprio, mentre con grande velocità, con Massimo, ecco, da vai, con questo tacco 12, Foggia, vai, gira. Però sono indeciso tra far cantare Pardo... Per alzata di mano, No, non ho problemi. Oppure anche... convocare le signorine dello stand qui accanto. Diciamo che la seconda. Chi vota per la prima? Solo la chioda. Solo la chioda. Signorine, venite qua. Signorine dello stand accanto, per favore, venite qui perché c'è troppo testosterone. Da intanto volevamo dire che la canzone, grazie all'ottimo Piantanida, la canzone su Benitez è di Lino Da Gio, comico napoletano, grandissimo imitatore di De Laurentiis. Magari lo potremmo anche chiamare. Massimo. Vai. Cagliari, poi andiamo a Foggia, poi Raffaele da Napoli, ragazzi, rimaniamo. Tanto io e Pardo abbiamo preso la cittadinanza poco onoraria. Noi, quando ce l'andremo, buongiorno, quando sarà gente, il cielo. Buongiorno Pardo. Buongiorno. Grazie per la convocazione. Dica. Allora, intanto appunto sono contento di aver sentito un grande allenatore, Benitez, però c'è un grande allenatore che è italiano, che io credo sia di livello europeo, che si chiama Montella, che ieri ha dato la sua grande personalità, che ha imposto il gioco anche dopo il pareggio, cioè andare alla Juventus Stadium e pareggiare in quel modo giocando in attacco. Io penso che sia indice di grande mentalità, per cui a questo punto bisogna ragionare per il Napoli, non soltanto il secondo posto con la Roma, ma attenzione alla Fiorentina, che adesso sto recuperando Gomez e magari anche Rossi diventa competitiva alla grande, quindi la paella di Benitez potrebbe risultare indigesta. Secondo me no. Nel senso che secondo troppo lontana la Viola. La Fiorentina è molto lontana e onestamente la partita di ieri la concentra se possibile ancora di più sull'Europa League. Se dovesse passare il turno da Coppa la Fiorentina ha la faccia della squadra da Coppa. La finale di Coppa Italia qual è? Fiorentina-Napoli. Poi si potrà discutere sul fatto che la Fiorentina non ha affrontato delle grandi, però ha affrontato l'Udinese che aveva eliminato Inter e Milan, quindi voglio dire alla fine è come nel tennis, no? Dici sì, arrivo in finale con un outsider, però l'outsider comunque ha fatto fuori delle teste di serie, al di là del fatto che Inter e Milan in quel momento ha vinto la Fiorentina ieri sera, in quella fase Conte può dire quello che vuole. Due partite molto simili secondo me tutte e due, perché nel primo tempo il Porto ha dominato il Napoli, la Juve nei primi 20 minuti ha affettato la Fiorentina e poteva fare anche il 2-0, poi però le partite sono girate. Il paradosso è che il Napoli ha preso il gol nel secondo tempo quando ha giocato meglio rispetto al primo, e invece no, la Fiorentina sicuramente nel secondo tempo è cresciuta, come era successo in qualche modo anche in campionato. Ma secondo te è favorita a questo punto la Fiorentina per il passaggio del turno? Secondo me 50-50 ancora? Sì, sembri 50-50, a chi lo dai l'uno? Lo do alla Fiorentina, anch'io do il 51% alla Fiorentina per motivi statistici, statistici, però secondo me se la Juve fa una grande partita può vincere a Firenze, anche se torno a ripetere secondo me, e questo è un titolo di assoluto merito soprattutto ripeto in questo momento storico, Fiorentina e Napoli hanno la faccia da Coppa, quindi una faccia che a me piace tantissimo. Alessio, buongiorno. Sa che mercoledì siamo dalle sue parti, lei provincia di Foggia, Foggia-Bari è un attimo, ci verrà 128 chilometri, no? Con la provinciale, con la coplanare 128 con il navigatore di Cassano. Buonasera, vai col microfono. Grazie a lei, Alessio. Siamo da Vieste, aspetta, Alessio, perché abbiamo il signor Francesco che lei è il navigatore. Sei un navigatore, sei un navigatore. 128? Perfetto. È il navigatore di Cassano, Che strada si fa da Foggia a Bari? La 16 bis. O puoi prendere l'autostrada e andare a Candela, ma allunghi, poi c'è il pedaggio, insomma, il tempo di crisi, la 16. Poi, la 16 è una strada romana, consolata, no? Sì, che cos'è? L'Appia? Tutte le strade portano a? La 16 dov'è l'Appia? A casa di Pardo. Ma controlliamo, signor Piantanida, è l'Appia, credo, no? Quella che arriva fino al tacco, fino a Santa Maria di Leuca. Stiamo facendo della geografia. Va bene, Alessio, torniamo a parlare di calcio, ma siamo operativi anche su questo fronte. Dica, Alessio. Dica. Comunque Alessio. Siamo da Vieste, un po' più lontano rispetto a, a Foggia e quindi anche Bari. Comunque non fa niente. Senta, volevo intervenire per quanto riguarda la partita di ieri della Juventus e le scelte di Conte nello specifico. Per quanto riguarda un giocatore come Ogbonna, io l'ho sempre ritenuto nel mio piccolo, un giocatore pagato troppo e sopravvalutato dal punto di vista tecnico, pertanto ritengo che una partita così importante e decisiva per il proseguo del campionato delle due squadre, aver optato per un turnover in difesa con la presenza anche dello stesso Casares sia stato un azzardo, abbia messo in imbarazzo di sovente, perché in attacco no Alessio? Per quanto riguarda l'attacco concordo, però ho sentito dire che Tevez non era informissimo, aveva forse qualche problemino fisico. Io mi auguro e mi aspetto da Conte che questo problemino fisico di Tevez lo lasci a riposo anche domenica prossima con il Genoa per preservarlo per il ritorno a Firenze in freezer. Ma io penso che la partita di ritorno la Juve dovrà giocarla con i migliori, non credo ci siano dubbi, perché nel frattempo sicuramente si è complicata Europa League dopo il pareggio di ieri, si è semplificato il campionato con quello che è successo nei giorni scorsi. Allora, la strada 16, la statale 16 è l'Adriatica, per chi non lo sapesse, mentre l'Appia in effetti arriva a Brindisi, però è proprio l'interno. È Roncobilaccio, come Roncobilaccio. Abbiamo il traffico adesso, sì, traffico. Il cross, la mischia. Si salva così il Napoli e poi il gol di Martinez. Tra mille gambe. È spuntato questo pallone, però mi sento di dire che il Napoli subisce il gol nel momento in cui lo meritava di meno. Madonna! Tutti convocati. E vabbè, bisogna fare sereno e ritrovare fiducia e giocare bene. Momento così. Me lo deprime. ultimi ancora di più. Piantanida è un demonio con questi effetti speciali oggi. È un diavolo oggi. È un diavolo. Beh, del resto, insomma, le cose migliori le riserva per le trasferte. Noi siamo a Napoli, lo ricordiamo, vicino a Piazza Retecco. Anche Raffaele è a Napoli. Sulla strada verso Raffaele Auriemma in arrivo. Oh. Nel parcheggio mi ha chiamato pochi secondi fa. Raffaele invece è al telefono. Raffaele, prego. Ma sì. Dov'è? Dove si trova? Dove sta? No, prego, ma dov'è lei adesso? Io dove sono? Sì, beh, a casa. E la casa dov'è? Non vogliamo l'indirizzo civico, però dico la zona. Zona quale? No, io abito a Nola. A Nola. Quindi no, sulla strada. Un attimo solo, possiamo dare Ligios ancora. Dove si trova Nola esattamente? A 22 chilometri da Napoli. Da Napoli, a nord, no? La zona Pomigliano d'Arco. A est. Esatto, quella zona lì. No, ma sono napoletano. Quindi non ce la facciamo venire. Innanzitutto complimenti per la trasmissione, siete molto simpatici. Soprattutto un saluto a Pardo, che è molto simpatico. Grazie. E siamo fra l'altro solo a 22 km di distanza oggi, proprio il destino ci sta unendo. Prego Raffaele, sì. Io no, sto meno simpatico io, come al solito. No, lei è simpaticissimo lo stesso, per carità. Ah, ecco, non vedi che sono abituato, io non mi offendo mica. No, per carità. Volevo sapere due cose a Pardo. Volevo sapere se è possibile... Una replica della sua trasmissione, perché va in onda molto tardi lunedì sera, non è possibile replicare il giorno dopo? Ma il giorno dopo è disponibile tipo dalle prime ore della giornata su Video Mediaset, quindi la può trovare su Video Mediaset. Lo so, no, io dicevo su Media Extra per esempio. In televisione non è possibile replicare il giorno dopo, il martedì, perché va in onda un po' tardi la sera. Adesso ci lavoriamo. Fra l'altro, chi ha Premium Play la può. Faccio sempre il commerciale di Mediaset oggi. Sembra proprio agenti rappresentanti. Se ha per caso Premium Play, che è l'applicazione, da lì si vede direttamente dopo. Vabbè, comunque ci lavoriamo. Grazie, Raffaele. Grazie dell'affetto. La seconda? Volevo sapere, secondo lei si è deciso il secondo posto dopo la partita della settimana scorsa, peraltro persa immeritatamente dalla Roma, e quanto può influire l'infortunio di Strootman? E poi volevo sapere un'altra cosa sulla Formula 1, sento dire da Vettel che quest'anno il loro dominio è finito. Secondo lei è vero sto fatto o mettono le mani avanti? Guardi, lo chiedo al più grande esperto di Formula 1 che c'è qui a Napoli, Raffaele Auriemma. Buonasera, Auriemma. Finito l'impero di Vettel, il signor Vettel? Certamente no, dai, non è mica te ne può fregare di meno, delle macchine. Ma perché dici questo? Guarda che io sono venuto con la mia automobile, che è perfetta. Raffaele, buongiorno. Ciao, a tutti. Come stai? Male, ma avete preso a pernacchio, ho sentito prima. Ma come no? Dobbiamo rispondere al tuo omonimo. Sì. Sul discorso del secondo posto, io penso che la Roma sia ancora avanti, nel senso che i tre punti con lo sconto diretto a favore danno un vantaggio. È chiaro che l'altro giorno sono successe due cose pesanti. La prima è la vittoria del Napoli nello scontro diretto e la seconda è l'infortunio di Strootman, che pesa. Ora, l'arrivo di Nainggolan a gennaio, secondo me, offre alla Roma la possibilità, con una partita a settimana, di avere tante rotazioni. Secondo me sono decisive le prossime 3-4 partite, perché nelle prossime 3-4 partite il Napoli ha un calendario peggiore della Roma. Se la Roma riesce a riallungare un po', secondo me arriva seconda. Perché dici che ha un calendario peggiore? Perché secondo me, per esempio, Torino-Napoli... Ma il Napoli si esalta nei grandi andrei match. Difficoltà, tu dici, Il Napoli ha difficoltà con le piccole, quindi adesso... Quindi Napoli-Juve, per esempio, tre punti facili. È già fatto, in scioltezza. No, piuttosto, io sono molto curioso... Ma avete preso a pernacchia, non ricorderò. Ma no, era la scaramanzia. Ma dai, ma quale scaramanzia? Era la per esorcizzare... Quello è Totò. Patrimonio per esorcizzare il fantasma di ma quale Martinez. Fantasma, ma quel povero pernacchio era per Martinez, leggi. No, piuttosto, per Martinez. Era per Martinez, chiaro. Jackson. No, piuttosto, sulla Roma, io non sono così sicuro che a Roma avrà vita facile, ma anche perché sono molto curioso, sono molto curioso di vedere quale sarà la reazione dopo una settimana difficile. Perdi Strootman, dopo aver perso qui, è in un momento, secondo me, abbastanza complicato la Roma. Può trovarsi. Adesso vediamo qual è la scorza di questa squadra, vediamo se riusciranno a reagire a queste difficoltà che il Napoli ha già vissuto quest'anno, perché è stato fuori Hamsik tanto tempo, Zuniga ne abbiamo perso le tracce ormai, poi momenti alterni Reina, lo stesso Maggio, che adesso lo sai Benitez, come sta Maggio? Male. Ricoverato alla clinica Pinetta Grande, ne avrà per almeno 20 giorni. Quindi lo perdiamo in un periodo molto delicato. Benitez non ci ha risposto su questo, ha detto che non è possibile scegliere, ma fra il secondo posto e l'Europa League? che scegli. Non c'è dubbio, dai. Dunque, se arriviamo al terzo posto, viva l'Europa League. Perché è un trofeo, no, comunque. Se devi scegliere, va più bene a mamma o a papà. Il secondo posto ti dicono, lasciamo la Coppa Italia alla parte. Aspetta, ti dicono, arrivi terzo, ma sì, vinci l'Europa League. Oppure arrivi secondo, ma non vai avanti in Europa League. Che scegli? Arrivi terzo e vinci l'Europa League. Io la vedo così. Anche io la vedo così. Anche quindi, perché poi col terzo posto comunque va in Champions. Ma poi sai, se vinci l'Europa League, il tuo ranking migliora. È talmente alto che poi dopo, Uriam è astuto. Ma no, io sono tifoso di Vettel. Ma che domanda di Vettel. Tanto ci ricordano che tra un po' di insulti, che la Pennetta è in semifinale a Indian Wells. A proposito di Puglia, verissimo, lo facciamo volentieri. Ha battuto Sloan Stephens, semifinale con la Lina a Indian Wells. Sì, invece tra l'altro la Pennetta è pugliese, mi viene da dire, quindi pugliese. Era un modo, avevamo parlato di Puglia, quindi alle cime di Rapa, no, lo diciamo, abbiamo parlato di Puglia proprio per introdurre l'argomento. Convochiamo Pennetta. Lei mercoledì, andiamo a prenderla a Brindisi la 500 magari. Vincenzo Ragusa, buongiorno. Sì, salve. Aspetta, io volevo parlare di Milan, sono tifoso del Milan, siccome penso che ogni squadra di la riunione di amici che vanno a giocare a calcetto, vorrei trovare un giornalista, un opinionista, il rispetto a noi sì, e dicesse a Galliani, avesse il coraggio di dire a Silvio Galliani, dopo 20, 25 anni, 30 anni di gloria, il presidente viene a dire che è senza soldi, che la squadra è scarsa perché non ha avuto i soldi, e poi va a spendere 7-8 milioni per Costante, che non giocherebbe neanche nel Comiso qua, che gioca in promozione, perché mi va a prendere Dolce Remy e tutta questa compagnia cantante, tutta questa compagnia cantante di personaggi che con tutto il rispetto potrebbero giocare nel Sassuolo. E sì, perché ha messo dentro il mio un signore come Raiola, che mi ha portato i vari Taiwu e di tacchi di là, personaggi che io nel Milan, cioè, con tutto il rispetto, io mi sono visto Maldini, mi sono visto Tassotti, Baresi, Costa Curta, sì, però, e compagnia. Il problema è che non si vede che cosa verrà dopo. Che abbia il coraggio di dirglielo a sto signore che si è mangiato il Milan. Perché questa squadra si costruisce nei prossimi 10, ma certo, sinceramente mi sembra generoso, poi sembra eccessivo. Però finisco e poi vi lascio così, sì, mi rispondete. Lo capisco che è generoso dopo 20 anni. Questo signore però mi viene a dire che va a prendere i signori a parametro zero, ok? Ed è un grande perché prende i signori a parametro zero. Se poi non riesce a dare a nessuno, perché gli dà 5 milioni di euro per tenerli in tribuna, mi va a prendere McTessi, va a prendere Silvestri. No, ma questo ci riesce anche me... mia figlia a fare sto lavoro qua. No, questo secondo me è il tema, diciamo, politico, cioè il tema sostanziale della questione. Cioè, è chiaro che questa filosofia degli ultimi anni dei parametri zero ha portato anche a degli scudetti, a uno scudetto con Ibrahimovic, però poi che non era parametro zero, ma era lo stesso tipo di mentalità, sì, no? Certo. Il grande acquisto trovato con la molto rateizzato. Cioè, questo tipo di ingegneria ha funzionato con Ibrahimovic, non sta funzionando con Balotelli, non ha funzionato nemmeno troppo con Ronaldinho, con Ronaldo, no, quindi Ronaldinho su questo siamo d'accordo. Però ecco, da qui a ridurre l'esperienza pluriventennale, si dice, si può dire, sì, eh? ma poi insomma, Galliani mi fa sembra... anche con i soldi che ha, cioè voglio dire, è quello se c'è una cosa che si può rimproverare, ma col senno di poi siamo bravi tutti, è quella che il Milan forse avrebbe dovuto dire ai tifosi: facciamo un progetto di 3 anni, 5 anni, non c'è una lira, o comunque bisogna fare un contenimento di costi, e quindi facciamo una politica diversa, vinceremo un po' meno, ma fra 5 anni avremo una squadra potenzialmente sana, sia come società che come squadra. Ha ragione Pellegatti, ti ricordi l'altro giorno a Milano, non puoi dire giochiamo con i ragazzini, no, certo, non certo, glielo puoi certo, dire sì, e quindi però... fai così, vai con le volevo dirti a questo proposito che il signor Piantanida ci segnala che il Milan pare che sia interessato all'area dell'Expo, che finirà nel 2015 all'Expo, e questo insomma potrebbe essere anche dal punto di vista infrastrutturale un acquisto importante. Che ruolo gioca? No? È l'Expo, gioca centro, cioè enorme. Ci sarebbe una colonna sonora sotto sì, questo commento, nostalgia canaglia, perché quelli del Milan si sono abituati a vincere tanto in passato. Quindi stai tranquillo che te la cerchiamo. Giornale radio, momento serio, ma serio. In silenzio. Non sbagliate mai, quadrupede, scegliete sempre il ciuccio che vola in alto, che vola lontano, che fa riacciuffare quelli che provano a scappare. Tutti convocati. va a prendere Dolce Remy e tutta questa compagnia cantante. Sì, tutta questa compagnia cantante di personaggi che con tutto il rispetto potrebbero giocare a Sassuolo. Perché? Ma che cos'è? Diavolo. Questa è dedicata a Raffaella Auriemma. Naturalmente. C'è uno che mi dice che non tengo la schiena dritta con Galliani, che ha fatto tanti errori. Io lo so bene, sì, Galliani negli ultimi anni ha fatto gli errori. Detto questo, vabbè, se non faceva qualcosa Galliani, che già io non lo so, boh, forse se non faceva capisco che la memoria, no, ma io capisco che la memoria era così, no? Capisco che la memoria sia corta e che il calcio è assolutamente liquido, no? Cambia di settimana in settimana, ma che Galliani abbia vinto di tutto di più in questi anni, non lo so, 4 anni fa non lo scudetto. Nostalgia canaglia. Tra l'altro con Ibrahimovic preso veramente con i punti dell'essere uno. Sì. Ecco, non volevo fare marchi, però insomma, preso con una serie di operazioni di ingegneria. Non lo so, del distributore. Boh, vabbè, poi gli errori ci sono. Per me l'errore principale del Milan di questi anni, lo ribadisco, è non aver parlato chiaramente ai tifosi, non aver fatto capire, non aver fatto un progetto questo di medio periodo. Poi è vero che a Milano è difficile, è vero che Pellegatti ci diceva che il pubblico magari torce la bocca. Sì, però Secondo me, se tu glielo fai capire. Con Cristante e con titolare fisso e con i prodotti del settore giovanile con Petagna centravanti, Pierluigi, dai, fa bravo. Non, a Milano non puoi fare un discorso di questo tipo. No, però, è vero che non sono chiari, però la chiarezza sta nei fatti. Vanno a prendere ex campioni ormai iperbolliti e gli pagano alti ingaggi. Benatia è un acquisto che grida vendetta per tutti quelli che non l'hanno preso, tanto per fare un nome. Napoli, no? In primis. Napoli. Cosa ne pensi della situazione del Milan? Tra l'altro oggi insomma leggo che Sedro fa il duro e che i giocatori italiani sono in fila davanti alla porta dell'ufficio per chiedere la testa di Balotelli. Questo leggo. Secondo me Seedorf non era il profilo giusto da collocare in questo momento. Mi sembra il Donadoni piazzato a Napoli dopo i 5 anni di Reia, che non ha potuto esprimere il suo valore e adesso invece lo sta dimostrando nel Parma. Non so se sarà mai un buon allenatore Seedorf. Come finisce il salto dei Donadoni? Perché prima abbiamo sentito Benitez che parlava di Pompei, Cristo Velato, insomma, che ci sembra proprio calato nel tessuto della città, no? Sembra più napoletano dei napoletani. Donatoni aveva questo problema? Perché poi ovunque è andato ha fatto benissimo. Non ha avuto tempo Donadoni di potersi collocare nel Napoli, che era in un guado, perché fu il periodo in cui De Laurentiis mandò via Reia, mandò via Marino che aveva costruito il Napoli. Sì, ma dico, serve essere un po' in linea, in sintonia con la città, anche un po' paraculi nel senso buono, paraculo è un avverbio, no? Cioè, comunque, paraculi va bene, ma Benitez non è inserito nel tessuto della città. Lui ogni tanto, quando viene alla famiglia, fa questi giretti, ma poi sono sempre gli stessi. Sì, però è simpatico, è mediterraneo, sì, è quindi piace, paraculo, benissimo. Ma no, paraculo nel senso buono, sì, per me non è che buono, fa finta, è una qualità. Lui è così, ma mica lo stiamo così, finendo. Non è che sta Raffaele, finta, saluta un portiere che ti ha fatto vincere qualcosa. Il signor Giovanni Galli, come Giovanni va? Galli. Signor Galli. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Giovanni. Tutto bene? Abbastanza. Sono come a Firenze, sono appena rientrato. Bene. Giovanni Galli era convinto di vincere ancora qualcosa col Napoli, ma purtroppo non l'ha vinto. Ho vinto solo una Supercoppa. La prima partita vera. Sì. Contro chi l'hai vinta sta Supercoppa, Giovanni? Me lo ricordi? Contro non lo voglio dire, ma sono i miei nemici di sempre. Certo. Mica sono tuoi, Ma i nemici di sempre, Giovanni, i nemici di sempre a sto giro ti hanno convinto oppure no? Perché prima io insomma ho detto a lungo che la Juventus ha sbagliato i conti tra campionato e coppa e che adesso la Fiorentina ha giocato una meravigliosa partita ieri e adesso al mazzo. Sì, è vero, hai il mazzo ma anche la responsabilità della partita. Adesso ce l'ha sulle spalle la Fiorentina, perché se prima della partita di ieri sera tutti davano favoriti alla Juventus, logicamente il peso, no, di questa qualificazione ce l'aveva sulle spalle la Juve. Il risultato di ieri sera capovolge. Adesso la Fiorentina, che è di fronte ad un impegno, forse il primo grande traguardo, il primo grande impegno a livello psicologico, di concentrazione, di preparazione di una partita importante, bisogna vedere appunto se riuscirà a mantenere i nervi saldi, a saper leggere leggere la partita, saperla direzionare per come intende portare poi dopo alla fine alla qualificazione. Insomma, credo che questo la Juventus è forse in un momento, non lo so, forse di pausa, perché non dà continuità, una squadra che gioca a sprazzi, gioca. Mi aveva impressionato a Trebisonda, devo essere sincero, e davo poche chance a tutti gli altri, perché se quella Juve lì si è imposta in maniera così netta, così devastante, pensavo che potesse avere un cammino diverso. Invece già domenica scorsa, ieri sera... Sì, non benissimo, però io resto convinto del fatto che ieri sera in Coppa, cioè devi andare con Tevez, e se ha male pazienza, gioca lo stesso. Stringi i denti, cosa che avrebbe, penso, potuto fare, che non mi sembra sia malato grave. Giochi con Bonucci, giochi con la squadra titolare e poi turnover, ne parliamo in un campionato già vinto. Intanto due notizie: Palacio ha rinnovato fino al 2016, è il profilo del giocatore del rinnovamento voluto da Toir, quindi è perfettamente in linea con la verde età. Vabbè, Del Piero, addio, no, però, a fine io secondo me allora Palacio, no, ma va bene, c'è una certezza che oggi all'Inter è Palacio, ma... no, non è un ragazzino, ma non è neanche decrepito. No, ma va bene. Poi vediamo, cioè, è una buona notizia, vediamo, per l'Inter aver rinnovato Palacio. Sì, ma no, ma come no, è anche un profilo scontato di quelli che piacciono molto a Walter Mazzarri. Però restando con Giovanni Galli, voglio misurare il suo livello di gradimento e di provocazione. Giovanni, sì, ci diamo un appuntamento per il 3 e il 14 maggio? Ma... due finali, una a Torino e una a Roma, sì, guarda, sì, ti aiuto, sì, io. Però se mi permetti, no, ma lo sapevo, sì, vorrei però fare una petizione, Giovanni, vorrei che si giocasse alla luce del sole, perché ho capito che la Fiorentina di sera resta sullo stomaco. È vero, c'è chi ha ironizzato, no, sul fatto della Fiorentina a mezzogiorno, ma effettivamente poi la sera è pesante, specie se si mangia pesante, l'osso. Sì. Luigi da Firenze, che è in linea, la Fiorentina la mangia, ha mangiato anche oggi a pranzo. Luigi, saluto Giovanni Galli, saluto i vostri ospiti. Io sono tifoso della Juve a Firenze e non vi dico la pena che Firenze sta avendo oggi da Facebook, eccetera. Vi dichiaro che ti pare nel modo buono Juve a Firenze è un atto di coraggio, sì. Sì, però io devo dare atto a Montella del secondo tempo di aver piazzato bene la squadra e di non fare come al solito sulle fasce, perché giustamente se lui ha inciso centralmente ha spiazzato la difesa. Però una cosa la devo dire, io ieri praticamente ho visto anche la Juve bene, perché la Juve non è stata cinica, cioè la Juve praticamente è stata alle conclusioni è mancata, quindi io vedevo la squadra bene nel primo tempo, poi se i ragazzi non si segna e c'è anche l'altra squadra. E sapete com'è la piazza di Firenze? La piazza di Firenze, cioè la partita di ieri e il partito di ritorno, per la Fiorentina non esiste nulla a campionare, Giovanni Galli lo può dimostrare, ma vincere con la Juve e strappare la qualificazione la Juve è come ma godimento assoluto, orgasmo totale, ma io lo posso ma neanche immaginarlo, lo so, e basta, ma è così. Giovanni, invece volevo chiederti un'ultima battuta e poi dobbiamo chiudere, sì, sul Milan. Tu che faresti? No, tanto per passare alle cose. Che faresti? Perché diciamo, la diagnosi è semplice, ma la cura qual è? Ma la cura credo che bisogna togliersi dalla testa in questo momento, già sento dobbiamo andare in Europa League, no? Il nostro traguardo adesso, perché non possiamo stare senza Europa. Beh, io sono tra quelli che dicono che quando devi ricostruire non devi forzare la mano, la ricostruzione deve ripartire attraverso un progetto, un programma che può avere anche un anno di transizione dalle coppe europee, ma nel momento in cui ti ripresenti per fare il protagonista. Sì, certo. Un po' come ha fatto la Juve di Conte. Grazie Giovanni. Ciao, grazie a voi. Ci dobbiamo fermare, ci dobbiamo fermare, ma andiamo avanti. Ho visto già il signor Barisoni che farà il programma di economia dopo da qui. Noi stiamo a Napoli, ho chiesto cittadinanza, ce la danno anche Vitto alloggio, forse no. L'alloggio sì, Vitto, ci sei te, magari no. Grazie Raffaele Aurelio. Nel mio caso cosa molto grazie a voi. L'alloggio, su questo non ci sono dubbi. Franco Piantanina qui con Pietro La Corte, grazie anche ai tecnici di Milano, tutti quelli che hanno lavorato per questo programma e grazie a Napoli. Ciao. Ciao. Fausto Rossi o preferisci ti chiami Faustino? No, no, Fausto, italiano. Il nostro calcio è un po' più tattico e meno aperto sicuramente a situazioni offensive. Qui in Spagna c'è molto ritmo. Le squadre comunque sia in casa che fuori vanno a giocarsi la partita a viso aperto. Quindi si bada più, diciamo, al calcio offensivo e allo spettacolo rispetto al calcio italiano che è un po' più pragmatico, un po' più tattico, un po' più intenso a livello prettamente fisico, dico di scontro fisico, non di ritmo. Voglio salutare il mio caro amico Carlo Pellegatti. Sì, buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi ospiti e ascoltatori. Soldi il prossimo anno non ci saranno degli investimenti. Abbiamo visto che la politica obbligata di Adriano Galliani, quella dei parametri zero e dei prestiti, fisiologicamente non ti può portare a una grande squadra. C'è la politica dei giovani, a me non affascina per nulla. Mi sembra che però è l'unica politica in questo momento, perché se non ci sono gli investimenti si devono andare a cercare i tanti poli, i tanti giocatori giovani in tutto il mondo. Mi sembra l'unica soluzione. Avvocato Prisco. Sì, chi mi sta cercando e disturbando qui nella mia quiete paradisia? Mazzari, insomma, è un tipo un po' nervosetto. Io invece volevo dirvi che ho una grandissima ammirazione per Diego Pablo Simeone e il Ciolo, e vi posso anche dire questo, che prima di Atletico Madrid Milan l'ho benedetto per 4 volte. Buona eternità, anche se siete terra a terra, buona eternità anche voi. Forza Inter, forza Inter. Concludo ricordandovi che la nostra trasmissione va in onda alla stessa ora ogni settimana, lo stesso giorno, la stessa ora, la stessa rete. Bello, eh?